con quelle parole da farci vomitare. Ti compri la mente per poter baffare. E questa stupida idiota melodia è il pretesto per riavere una cosa che è mia. Come ti passa ora non lo so. Ma spero male sai. Il centro del mondo ti senti solo per mascherare il lunetto vero che sei te. E questa canzone che in fondo anche è banale te la dedico solo per poterti sputtanare. Ma ora c'è un bimbo che inizia ad un istante. Se lavi solo il tuo lato più arrogante e l'hai reciso l'unico.